Buonasera, 451 frammenti sonori in compagnia di Max Macchia, ma poi in realtà anche con la fantasmatica, visto il titolo anche della trasmissione di questa sera, compagnia di Eliseo Scarpa, che saluto chiaramente, e di Lorenzo Albano, insomma le altre anime nere, oserei dire, insomma, di 451 frammenti sonori, ovviamente senza ambiguità, questo nero, di nero soprattutto si veste il sottoscritto, neri molto spesso sono gli umori e le visioni distopiche che ci prendono, però tendenzialmente insomma siamo di ben altri colori, soprattutto rossi di rabbia, insomma. E 451 appunto riprende, già insomma spero di aver fatto una bella sorpresa settimana scorsa, mercoledì scorso, appunto ritornando in onda con questa trasmissione radiofonica, così ancora vogliamo chiamarla, chissà, forse un giorno diventerà qualcos'altro, ci inventeremo qualcosa, a presto insomma, probabilmente. E Max Macchia questa sera con Ghost Track, appunto va dentro le fantasmagorie create appositamente per una selezione che va tanto a toccare quelli che sono i piani fantasmatici veri e propri, tanto quelli invece legati proprio alle ghost track, alle hidden track, qualcuno le chiama così, sono delle tracce nascoste. Ci interessa relativamente la faccenda, perché poi di ghost track storiche ce ne sono, ricordiamo una su tutte potrebbe essere quella dei Beatles, che chiude Sgt. Pepper, l'album storico psichedelico appunto dei 4 di Liverpool, dopo si sono succedute varie faccende insomma legate alle ghost track, anche cose abbastanza ridicole, giustamente anche prese in giro da Elio Storietesi. C'è anche una ghost track di Elio in It the Fickies, anzi una cosa che vi consiglio di fare, anche andarvela a ritrovare, che è piuttosto divertente, perché poi dovete lavorare con qualche programmino che vi ribalta la traccia, perché praticamente sembra un messaggio satanico, come tante volte insomma mitologicamente nella storia del rock è stato così voluto più o meno dai vari autori che hanno inserito insomma delle tracce fantasma dentro i loro dischi, tante volte appunto ribaltando i suoni, solo che all'epoca del vinile insomma bisognava avere strumentazioni adattissime per arrivare al suono originale. In realtà con faccende come quella di Elio Storietesi basta ribaltare un semplicissimo file con un programmino insomma semplice di trattamento dei file, appunto in questo caso WAV. Questo sì, per dirvi insomma che la faccenda delle ghost track attraversa buona parte della mitologia del rock, e poi viene presa per tanti aspetti da tutta la generazione digitale. Sentiremo tra l'altro un progetto anche piuttosto conosciuto, sempre per rimanere insomma dentro gli anni 90, che per certi versi insomma interessano questa stagione di 451 frammenti sonori, forse l'hanno sempre interessata, però insomma lanciando, come dicevo l'altra volta, una sorta di o forse scongiurando un revival anni 90 che è presto e a qua a venire, troveremo una traccia appunto di un gruppo digitale assai famoso, e con loro, come tante altre formazioni, la ghost track è diventata un percorso ancora più accidentato, visto che dentro i solchi del vinile era abbastanza visibile la faccenda, invece dentro il CD, seppur sorprendente, perché tante volte si metteva sul vinile, o si mette, visto che qualcuno lo riutilizza, tra cui il sottoscritto, e non solo io in questo periodo. E trattando invece la faccenda del digitale bisogna andare un po' a scovare, soprattutto guardando quelli che sono i minutaggi. Tendenzialmente le ghost track venivano messe a fine del disco anche per i CD digitali, quindi supporti tali, ma tante poi sono state le varianti, ne troveremo una questa sera forse tra le più geniali, soprattutto come a livello qualitativo di pezzo. Ghost questo è anche il titolo di un'etichetta, Ghost Box, trattata più volte a 451. Andremo a trovare qualche progettualità che ci interessa, magari all'atere, ulteriormente fantasmatica rispetto al panorama della stessa Ghost Box, fantasmi dei fantasmi potremmo dire. E se dovessimo così iniziare con una signora, ormai signora, che all'epoca, nei primi anni 80, era sicuramente una signorina decisamente selvaggia dentro una sorta di industrial, tutto inventato da lei, con tanto di atmosfere noir che abbiamo tra l'altro già assaporato per pochi minuti la scorsa trasmissione di 451, ovvero Anne Gills. Si va a trovare un personaggio assolutamente semisconosciuto e, come dicevo l'altra volta, che va a toccare anche corde profonde con la sua raffinatezza industrial. È forse un ossimoro, però di fatto, insomma, con Anne Gills, che lavora tanto sui campioni, sui loop ripetuti, ovviamente in maniera analogica, sia il loop che il trattamento, siamo nei primi anni 80, però insomma con quel senso che poi diventerà anche di certe riprese rumoristiche anche degli anni zero. In questo senso, personaggio sì, fantasma delle musiche sperimentali Anne Gills, ma presenza fantasmagorica in questo senso dentro le nostre Ghost Tracks, che appunto vanno proprio a iniziare con la nostra, o vostra a questo punto, Anne Gills. Yeah. Se non sono fantasmi, ci siamo veramente molto molto vicini con Anne Gills, e è uno dei lavori forse meno conosciuti, più così fantasmatici nel vero senso della parola, e fantasmagorici anche, perché no, degli anni Ottanta, sia AA che il suo primo disco, che L'X Green, un omaggio sia alla nostra Pandora, che ha aperto appunto 451 in mia compagnia, Max Macchia, lo scorso mercoledì 29, tra il 29 e 30 gennaio, e poi dovutamente forse omaggiate in questa seconda trasmissione, sia con AA, che abbiamo appunto ascoltato con quattro tracce da quello splendido lavoro, seppur con qualche osticità, poi in realtà decisamente affascinante, sia per già l'evocazione che si crea vedendolo la copertina di questo album perso nel tempo e nello spazio sonoro, sia per questo mondo così veramente elusivo che va a toccare con grande sensibilità Anne Gills, sia in AA che in L'X-Green. Perlomeno questa sera ascolteremo questi due dischi. Tra l'altro ricordo, visto che non l'ho fatto questa è la seconda trasmissione di 451 frammenti sonori in onda su Radio Città Fujiko, ricordo anche 451frammentisonori.noblogs.org, scusate insomma per le pubblicità, le reclame, come le chiamava Fellini, così insomma ci diamo anche un po' un tono. E quindi insomma, se poi volete riascoltare l'intera faccenda sul blog appunto di 451, potete farlo e potete quindi riassaporare così, oppure assaporare per la prima volta queste ghost tracks che stiamo appunto trattando questa sera. L'X-Green, un album più o meno dello stesso anno, si sta trattando dei primi anni 80, album per molti versi speculare a AA, che ricorda tra l'altro anche una formazione di tutt'altra specie degli anni 80. Ce l'andiamo a prendere appunto con alcune tracce, anche queste decisamente evocative, di mondi lontanissimi e assolutamente evocativi. Thank you. ci siamo andati a prendere appunto da Anne Gills questo personaggio assai elusivo, evocativo già di per sé di mondi lontani in termini sperimentali, in termini di immaginari sicuramente, immaginari sonori che vanno a impattare tanto in certe forme anche di concretismo sonoro, se vogliamo, insieme a quello che è stato un po' lo spleen forse di certi anni Ottanta, se pensiamo a progetti come quello della 4D, queste immagini sempre sfocate, questa ricerca del fantasmatico che attraversa anche l'immaginario di Anne Gills, che per molti versi non ha avuto a che fare con 4D, ma meno che insomma non esca qualcosa già delle pochissime informazioni che si riescono a trovare sulla rete di questa splendida performer autrice sonora, però sicuramente va in parallelo rispetto a ricerche anche di altro tipo che vanno da appunto le evocative vicende sonore, immagine del Dead Can Dance, a certi primissimi Cocteau Twins, o se vogliamo anche a Def Jazz, quell'idea di proto post rock, se vogliamo definirlo così, e poi impattando insomma con la sensibilità cui accennavo prima, una sensibilità anche decisamente sonora che la fa un po' anche appartenere a quelle grandi personalità laboratoriali vicine appunto alla musica di ricerca sperimentale, avanguardistica dei grandi laboratori che negli anni Ottanta evidentemente, sia per un livello tecnologico acquisito sia per una volontà di punk nata insomma da il fai da te, e diventano più piccoli, diventano anche in anticipo sui tempi delle sorte di case con orchestrazioni e con anche strumentazioni che possono supportare sia l'editing di un disco, di una progettualità appunto sonora stampata, e sia invece anche proprio un intero lavoro di studio, quindi piccoli studi casalinghi. Ricordiamo anche come veniva utilizzato il tape, tutto il discorso appunto legato alle avanguardie della tape music, quindi lo storico laboratorio di San Francisco, dove è uscita gente tipo Terry Lille oppure Reich con i primi strumenti, insomma le prime sperimentali strumentazioni tape utilizzate dai due poi che diventeranno famosi nel minimalismo, ma tanti altri, Gordon Mann eccetera. Quindi anche questa linearità, se vogliamo, attraverso un discorso che non si è mai perso di tape music, che forse per certi versi è anche tornato attuale, sia in termini di riutilizzo, in termini di supporto, se vogliamo anche provocatorio, della cassetta, ma sia anche in termini di brumosità, utilizzato quindi in una chiave sonora se vogliamo bruttista, quello della cassetta, della tape, quindi anche in questo senso rievocazione di un fantasma, un fantasma tecnologico che si voleva insomma perduto, e come invece tutti i fantasmi esiste come presenza, e in questo caso la rievocazione con Anne Gills va di pari passo con le rievocazioni poi sonore che stanno facendo anche alcuni rumoristi attraverso il riutilizzo delle tape, sia in termini di supporto, che come dicevo appunto anche di creazione sonora. Ricordiamo Onetrix, Point Never, ma potremmo veramente dire tanti altri, i primi Emeralds eccetera della nuova scuola. Sì, forse di cosmica, neocosmica, con tanto insomma di rimando anche a certe industrialità, ecco, del suono, tanto per così sintetizzare o trovare insomma due paradigmi buoni per una scena nata negli anni zero e insomma sviluppata fino a questi mesi. E se dobbiamo trovare, perché sicuramente si trova dentro un mondo assolutamente allucinato come quello di Cree Marker, il fantasma, un fantasma magari sociale, è un fantasma che si fa metafora non soltanto della società, ma proprio dell'esistenza, dell'antropologico anche. Non a caso Terry Gilliams riprese la sua Jeté per l'esercito delle 12 scimmie, forse spettacolarizzando, ma anche insomma in maniera piuttosto creativa e sensata, quella visionarietà che è data addirittura da immagini statiche, quasi ritrovando un cinema parallelo della Jeté, primi anni 60, film incredibile dove Cree Marker rielabora l'idea di un fantasma sia filmico che appunto, come dicevo, più in generale, poi sui generis. E va a evocare veramente anche momenti decisamente profondi, non soltanto legate alla psiche, ma anche a quello che è una visione distopica, forse anche così sminuendo la visionarietà di Cree Marker, ma sicuramente insomma quell'aspetto c'è, e è anche un aspetto insomma, allargando invece il discorso e massimalizzandolo, politico, che porta avanti Cree Marker, non mettendo bandierine assolutamente, ma cercando di fare esplodere veramente pensieri attraverso la cellulosa, attraverso la celluloide, anzi più che cellulosa, e attraverso delle immagini sul serio in movimento. Andatevi a ripescare la Jeté, se qualcuno non ha avuto la fortuna o la disavventura magari per qualche un altro, visto la piazza attonita che si è ritrovata l'estate scorsa appunto della proiezione in piazza appunto della Jeté, cosa anche piuttosto notevole anche come proprio esperimento visivo compiuto appunto qualche mese fa, e andando a recuperare quindi questa magari visione, anche questa visione fantasmatica che per molti versi ha attraversato anche questi mesi in assenza appunto di 451, quindi in un certo qual modo anche noi fattisi Ghost Tracks, fattisi insomma ectoplasma quasi sonoro o perlomeno radiofonico, andiamo quindi a riprenderci questa visionarietà fantasmatica, fantasmagorica di Cree Marker con la sua Jeté, da un'operazione radio interessante, una radio svizzera fatta nel 2003, dove ricostruisce sonoramente il film a una tal potenza, forse anche memoria insomma, se qualcuno insomma ha avuto la fortuna di vederlo, chiamiamolo fortuna, sia con la Jeté che con Blue di Derek Jarman, e assaporare quello che è la visione sonora. Capisco l'assurdità di quello che sto dicendo, ma poi non tanto, visto che se vi siete imbattuti in Blue di Jarman, di Derek Jarman, o nella Jeté, capirete dove voglio andare a parare, soprattutto ascoltando appunto questo esperimento radiofonico assolutamente eccezionale del 2003 di Cree Marker appunto. Je me souviens. Je me souviens. Je me souviens de la Jeté. Ceci est l'histoire d'un homme marqué par une image d'enfance. la scène qui le troubla par sa violence et dont il ne devait comprendre que beaucoup plus tard la signification, eut lieu sur la grande jetée d'Orly, départ à destination de Rome, quelques années avant le début de la Troisième Guerre mondiale. À Orly, le dimanche, les parents mènent leurs enfants voir les avions en partance. De ce dimanche, l'enfant dont nous racontons l'histoire devait revoir longtemps le soleil fixe, le décor planté au bout de la jetée, et un visage de femme. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Ce n'est que plus tard qu'ils se font reconnaître à leurs cicatrices. Et quelque temps après, vint la destruction de Paris. Beaucoup moururent. Certains se crurent vainqueurs, d'autres furent prisonniers. Les survivants s'établirent dans le réseau des souterrains de Chaillot. C'est pour le conduire à la salle d'expérience. On vient chercher un jour parmi les prisonniers, l'homme dont nous racontons l'histoire. Il avait peur. Se réveiller dans un autre temps, c'était naître une seconde fois adulte. Le choc était trop fort. Ce visage qui devait être la seule image du temps de paix à traverser le temps de guerre, il se demanda longtemps s'il l'avait vraiment vu ou s'il avait créé ce moment de douceur pour étayer le moment de folie qui allait venir avec ce bruit soudain, le geste de la femme, ce corps qui bascule, les clameurs des gens sur la jetée, brouillés par la peur. Plus tard, il comprit qu'il avait vu la mort d'un homme. Au début, rien d'autre que l'arrachement au temps présent et ses chevalets. On recommence. Le sujet ne meurt pas, ne délire pas. Il souffre. On continue. Au 10e jour d'expérience, des images commencent à sourdre, comme des aveux. Je me souviens. Un matin du temps de paix. Une chambre du temps de paix. Une chambre du temps de paix. Une vraie chambre. Une vraie chambre. De vrais enfants. De vrais oiseaux. De vrais oiseaux. De vrais chats. De vrais chats. De vraies tombes. Je me souviens. Je me souviens du pain jaune. Du pain jaune qu'il y a eu pendant quelque temps après la guerre. Je me souviens. Quand je me suis cassé le bras et que j'ai dédicacé le plâtre à toute la classe. Je me souviens des attractions qu'il y avait au Gaumont Palace. Je me souviens aussi du Gaumont Palace. Je me souviens de Lee Harvey Oswald. Je me souviens des Scooby-Doo. Je me souviens de l'époque où un immeuble de 10 étages qui venait d'être achevé au bout de l'avenue de la Sœur Rosalie, était le plus haut de Paris et passait pour un gratte-ciel. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Le 30e jour, la rencontre a lieu. Cette fois, il est sûr de la reconnaître. C'est d'ailleurs la seule chose dont il est sûr, dans ce monde sans date, qui le bouleverse d'abord par sa richesse. A, s'arrête devant une coupe de séquoia couverte de dates historiques. Elle prononce un nom étranger qu'il ne comprend pas. Comme en rêve, il lui montre un point hors de l'arbre. Il s'entend dire « Je viens de là ». Une fois sur la ronde, j'étais d'aller, dans ce chaud dimanche d'avant-guerre, où il allait pouvoir demeurer, il pensa avec un peu de vertige que l'enfant qu'il avait été devait se trouver là aussi, à regarder les avions. Il comprit qu'on ne s'évadait pas du tout, et que cet instant qui lui avait été donné de voir enfant, et qu'il n'avait pas cessé de l'obséder, c'était celui de sa propre mort. Arte Radio.